seconda ratta. Vengo subito, vado già a giocare a qualcuno. La mangio a casa la brioche. Mamma, non c'è a casa la brioche. Volevo dire, mangi a casa il toast. No, ormai la decina. Allora non mangi niente. Volevo mangiare poco. Mamma, ci sono quelle la brioche. No, la voglio mangiare a casa. Guarda che non mangi niente. Posso mangiare a casa la... Allora, sta qui finché non andiamo a casa. Vengo subitissimo. Dai, ho fame. Andrà. Mamma, cosa lo puoi dire? Ma no, più che altro è quando posso. Intanto vado. Anche domenica io... E mi dice a me quando è... Esatto, perché io volevo dire anche alla mia, perché